Europa 24. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Europa 24. Oggi ripartiamo dai Balcani. Belgrado ha infatti denunciato nuove pesanti pressioni da parte di Bruxelles che condizionerebbe l'ulteriore cammino europeo della Serbia a un riconoscimento diretto o indiretto dell'indipendenza del Kosovo. Marko Djuric, capo dell'ufficio governativo serbo per il Kosovo, ha detto alla TV pubblica RTS che a proporre la nuova condizione contenuta nella bozza del capitolo negoziale 35 è stata la Germania, appoggiata dalla Gran Bretagna e dalla Croazia. Oltre a tutte le cattive notizie che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, ha detto l'uomo politico serbo, siamo stati informati dell'esistenza di un ulteriore emendamento per il prosieguo dell'integrazione europea su proposta della Germania. Insomma, Djuric dice, l'Unione Europea deve dire chiaramente se ci vuole o meno nell'Unione. Cambiamo tema, immigrazione dunque. Appena arrivata al porto di Augusta, la nave militare tedesca Schleswig-Holstein, con 207 migranti recuperati da un unico barcone, in banchina è pronta la macchina dell'accoglienza. Domani invece a Bruxelles si lavora sulla relazione Tusk in occasione del Consiglio dell'Unione Europea. È intervenuto su questa mattina il primo ministro italiano Matteo Renzi. Noi abbiamo detto che era il momento di cambiare la politica dell'UE sull'immigrazione, ha detto, ora assistiamo all'assunzione di un principio per mesi negato, ora autorevolmente riportato da Merkel e Hollande al Parlamento europeo. Il principio quale sarebbe? Lo dice lo stesso Renzi, il trattato di Dublino è finito, non tecnicamente ma politicamente. Sentiamo un passaggio di Renzi. A distanza di sei mesi dal Consiglio europeo straordinario dell'aprile 2015, possiamo dire con molta chiarezza, senza troppi giri di parole, che sulla questione dell'immigrazione l'Italia aveva ragione, l'Europa e il resto d'Europa no. E intanto mistero chiarito sui numeri resi noti ieri da Frontex, che aveva parlato di oltre 710.000 immigrati entrati in Europa nei primi nove mesi dell'anno. Gli ingressi sono stimati invece a 350.000 nell'Egeo, dall'Egeo, e a 129.000 in Italia, con un calo sulle nostre coste nel mese di settembre. Resta comunque il problema della cifra complessiva. Per sua stessa ammissione, Frontex conta due volte il medesimo ingresso di ciascun immigrato quando, come nel caso in questione, entra dalla Grecia, poi esce dallo spazio dell'Unione Europea attraversando Macedonia e Serbia e poi rientra in Ungheria. Sergio Nava ha intervistato Isabella Cooper, portavoce di Frontex. Dall'inizio dell'anno circa 710.000 persone hanno attraversato le frontiere esterne dell'Unione Europea. Ora, dobbiamo però capire che su alcune rotte, specialmente quella che porta dalla Turchia in Grecia, che è la rotta dove passano più persone, più rifugiati e più migranti, le persone sono contate due volte, perché tante persone che entrano, infatti specialmente i siriani, come gli iracheni o afghani che usano questa rotta dalla Turchia in Grecia, poi procedono per arrivare in altri paesi, tipo in Germania, in Austria, in Olanda, in Francia o in Svezia. Ecco, se capisco quindi bene, il problema è che voi non conoscete l'identità di queste persone, quindi è normale che alla fine vengano contate due volte. Più che altro noi come Frontex contiamo l'atto dell'attraversamento della frontiera esterna. Dobbiamo tener conto che appunto della doppia conta, quindi chi è entrato in Grecia dalla Turchia poi dopo ha lasciato il territorio dell'Unione Europea per poi dopo rientrare in Ungheria o in Croazia. A rigor di logica, questo ovviamente voi non lo potete dire ufficialmente, ma a rigor di logica gli ingressi reali potrebbero essere inferiori a 700.000, non si sa di quanto. Ma sicuramente, cioè, è molto difficile a questo punto fare la stima. Bene, con questo è tutto per le notizie dall'Europa. Adesso è tempo di aggiornamenti sportivi. Noi torniamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.